noi troviamo un'Italia molto diversificata, perché a fronte di questa media nazionale di diminuzione degli studenti del 17,6%, noi abbiamo due regioni che hanno aumentato le immatricolazioni e sono il Piemonte e il Trentino, che sono due regioni che hanno fatto investimenti in questo settore. Poi ci sono altre sette regioni che sono la Lombardia, la Liguria, il Veneto, la Valle d'Aosta, il Friuli, Venezia Giulia, le Marche e la Toscana, che hanno ridotto gli immatricolati, ma con una riduzione inferiore a quella del sistema. E poi abbiamo le altre regioni in cui siamo scesi fino a meno 36%. E queste sono la Campania, l'Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Molise, Sardegna, Umbria, Basilicata, Calabria, Sicilia e Abruzzo. Quindi il paese in realtà sembra un paese spaccato.